mi sprona, amor mi guida e scorge. Piacer mi tiro, sanza mi trasporta. Speranza mi lusinga e triconforta. Et la mano destra al cor già stanco porge. E il misero la prende e non s'accorge. Di nostra cieca e disleale scorta. Regnano i sensi ed la ragione morta. Dell'un vago desir l'altro risorge. Vertute onor bellezza to gentile. Dolci parole be rami mangiunto. Ove suavemente il cor si invesca. 1327 appunto. Sull'ora prima il dì sesto di aprile. Nel labirinto entrai, ne ve giondesca. Nel labirinto entrai, ne ve giondesca. Scorge, piacer mi tiro, sanza mi trasporta, speranza mi lusinga et riconforta, et la mano destra corge stanco porge, vertute onor bellezza to gentile, dolci parole be rami mangiunto, ove suavemente il cor si invesca. 1327 appunto. Sull'ora prima il dì sesto di aprile. Nel labirinto entrai, ne ven giondesca. Nel labirinto entrai, ne ven giondesca. Nel labirinto entrai, ne ven giondesca.